살다 누구 쓰다라 망가 라다 바다다 소라 망가다 돌아다 메 come l'ha fatta mi ti sei incarnita mia dolce malata donna mancata mi son sentita tutta la vita in quella passata ero Cleopatra sono annoiata senza di te mia amata disgrazia ti sei sposata suora mancata con una festa da suora affinata pregherò giorno e notte diventerò il crocifisso di suora mancata. Incarnerò il crocifisso di suora mancata. Suora mancata, mi son sentita tutta la vita. Quella passata ero mio padre, ma in questa vita suora mancata, dove sei stata, mi manca la tua. Suora mancata, torna da me, ero Cleopatra, ma in questa vita suora mancata, quella passata ero Cleopatra, ma in questa vita suora mancata, torna da me, torna da me, torna da me, torna da me, come una fata. Come una fata, suora mancata. E se sposata, suora mancata, con una festa, non sono rovinata. Crocifisso di cioccolata, ti scioglie sul petto di suora.